Letture di Radio 24. Qualche giorno fa una decappottabile girava negli isolati attorno a Wall Street diffondendo a tutto volume la canzone Final Countdown degli Europe, il gruppo svedese degli anni Ottanta. Parte da qui l'analisi della situazione finanziaria mondiale di Francesco Guerrera, caporedattore finanziario del Wall Street Journal e vincitore del premio Ischia Internazionale 2013. Nei cinque anni che ormai ci separano dalla crisi finanziaria, tre pilastri hanno sorretto l'economia e i mercati. Gli Stati Uniti stampavano denaro, rendendolo appetibile ad investitori e consumatori con tassi di interesse bassissimi. La Cina contribuiva con una domanda interna quasi insaziabile, che offriva mercati a beni, materie prime e buoni del tesoro americano. E il Giappone e l'Europa erano in panchina, incapaci di risollevarsi da seri problemi. Questo sistema imperfetto e abbastanza precario è servito a ricostruire lentamente le fondamenta dell'economia mondiale. Si è evitata la grande depressione stile anni 30 e le tensioni sociali non sono esplose. La Grecia fa eccezione. Ora però si cambia. Ciò che emergerà dalle convulsioni dei prossimi mesi determinerà il cammino economico e le dinamiche geopolitiche del pianeta nei prossimi anni. Come spesso accade, i mercati sono la cartina di tornasole. I movimenti piuttosto inconsulti delle ultime settimane, balzi sorprendenti seguiti da crolli pesanti, riflettono le paure, speranze e incertezze degli uomini della finanza e del mondo delle imprese. Per capire il perché, basta guardare ai tre pilastri. In America, la Federal Reserve ha detto chiaro e tondo che smetterà di iniettare denaro nelle vene dell'economia mondiale nei prossimi mesi. C'è un po' di dibattito sul quando, ma Ben Bernanke e i suoi colleghi non hanno lasciato nessun dubbio. La Banca Centrale Americana si ritirerà dal mercato delle obbligazioni, lasciando gli investitori senza un compratore potente ed enorme. In Cina, la nuova classe dirigente deve fare i conti con una crescita economica che sta evaporando come neve al sole. Dopo anni in cui il mondo e miliardi di cinesi si erano assuefatti a tassi di crescita di più del 10%, la locomotiva del pianeta sta rallentando verso il 7% oppure meno. Lou Jiwei, il ministro delle finanze di Pechino, ha sorpreso tutti questa settimana dicendo che il governo non ha problemi con una crescita di quel tipo. In realtà i governanti cinesi sono preoccupatissimi perché hanno bisogno che l'economia cresca sempre e comunque per tenere a bada disoccupazione, dissidi tra ricchi e poveri e rivolte politiche. Uno dei mercati più importanti ha già contratto la febbre cinese. Con le fabbriche made in China in rallentamento, i prezzi di materie prime quali rame e platino sono crollati, mettendo fine a un super ciclo di prezzi in rialzo che durava ormai da anni. Il Giappone, nel frattempo, si è risvegliato da un torpore decennale e sta tentando di tirare la propria economia fuori dalle sabbie mobili della crescita zero. Shinzo Abe, il primo ministro con i capelli da rockabilly e le politiche populiste, sta spingendo la banca centrale a fare la Fed, stampando denaro e tenendo i tassi bassissimi. L'unica che per ora non ha cambiato nulla è l'Europa, stretta tra la scilla della recessione e la cariddi di misure d'austerità necessarie ma anticrescita. Mario Draghi fa quello che può, o quello che gli permettono i tedeschi, per rassicurare i mercati, ma la realtà oggettiva di un sistema economico-sociale in crisi profonda rimane. I mercati stanno reagendo allo sbriciolamento di così tante incertezze. In America le azioni salgono e scendono come uno yo-yo in mano a un bambino che ha ingerito troppi zuccheri. I tassi sulle obbligazioni di Stato sono in crescita, aumentano i costi sia di mutui che di carte di credito e prestiti ad aziende, e l'espansione economica rimane ostaggio di una disoccupazione ancora alta. Il dollaro è il grande vincitore del salto nei tassi di interesse statunitense. La moneta americana sta spopolando nei mercati delle divise, a scapito di rivali in paesi emergenti quali il Brasile, l'India e la Turchia. Anche il Fondo Monetario Internazionale è d'accordo. Ha ridotto le previsioni di crescita per i mercati emergenti per il 2013 dal 5,3 al 5%. Sembra poco, ma senza i paesi dell'est e del sud e con l'Europa nelle condizioni che sappiamo, sarà difficile per l'economia mondiale ricominciare a tirare. Forse, più che Final Countdown, la colonna sonora di questo periodo potrebbe essere un altro album meno conosciuto degli Europe. Start from the Dark, incomincia dal buio. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Francesco Guerrera Finisce l'era del denaro facile, pubblicato dalla Stampa del 15 luglio. Letture di Radio 24. Chi sono i pirati informatici e perché fanno questo lavoro? Un reportage del New York Times apre una finestra sul mondo degli hacker, gli esperti informatici che sanno penetrare i sistemi operativi e che prima di essere potenziali spie sono soprattutto consulenti ben pagati dalle principali aziende di software del mondo, sempre alla ricerca di difetti di programmazione da riparare. Tra questi anche due italiani. Due hacker italiani finiscono in prima pagina sul New York Times. Luigi Auriemma, 32 anni, e Donato Ferrante, di 28, sono due figure emblematiche della nuova cyberguerra. Eroi o mercenari, a seconda dei punti di vista. Sabotatori di professione o capaci di salvarci dall'apocalisse di un attacco terroristico. Il New York Times racconta la loro storia perché è l'altra faccia della vicenda di Edward Snowden, il giovane transfuga della National Security Agency, che ha rivelato al mondo intero l'estensione dello spionaggio americano sulle nostre email, telefonate, conti bancari. La storia di Auriemma e Ferrante dimostra che furono proprio i servizi segreti americani a iniziare lo sfruttamento della cyberpirateria come nuova forma di guerra, della quale poi divennero loro stessi i bersagli. Il punto di svolta nella storia è rappresentato dall'operazione Stuxnet, il nome in codice del baco informatico con cui gli Stati Uniti e Israele sabotarono il programma nucleare dell'Iran, facendo impazzire alcuni impianti di Teheran. Il successo di quell'operazione, una volta divenuta di dominio pubblico, fu l'equivalente di un magistrale colpo di marketing pubblicitario. Tutti i governi del mondo vollero emulare quel tipo di offensiva contro i propri avversari, rendendo sempre più profittevole il business di esperti come Auriemma e Ferrante con la loro società Revul, che ha sede a Malta. Un tempo gli esperti come loro vendevano i propri servizi soprattutto alle stesse aziende produttrici di software. La Microsoft può pagarli fino a $150,000 se individuano un bug, cioè un baco, in un programma, e l'aiutano ad aggiustare il difetto. Gli hacker, che si sono sempre considerati i puristi delle tecnologie, disinteressati e un po' anarchici, per molto tempo diedero la caccia ai bachi informatici, soprattutto per far sfoggio della propria bravura. Un hacker che individuava l'errore o la fragilità di un programma di Google poteva rivelarlo anche gratis all'azienda produttrice, magari in cambio di un ringraziamento ufficiale sul sito della casa madre beneficiata. Contava alla gloria. Il pericolo, naturalmente, era che il baco finisse prima in mani malintenzionate. Non a caso questi difetti vengono chiamati, nel gergo degli addetti, zero days, zero giorni dunque, per riparare la falla e impedire il disastro. Perciò in questa corsa contro il tempo, le aziende high-tech hanno cominciato a pagare sempre più cari i servizi degli hacker. Il tariffario medio di Google ormai è di $20,000. Facebook è sugli stessi livelli, ma una volta ha pagato soltanto $2,500 per il baco scoperto da un ragazzo di 13 anni. In quanto ad Apple, i suoi difetti sono più rari, ma proprio per questo più temibili o appetibili. Non a caso, gli hacker che scoprirono un difetto zero giorni nel sistema operativo Apple sono stati pagati ben $500,000. Quella dei pirati, insomma, è diventata una professione rispettabile. Li si paga per proteggersi da altri pirati, oppure per effettuare micidiali incursioni in campo avverso, proprio come ai tempi di Sir Harry Morgan, il pirata dei Caraibi che lavorava al servizio di Sua Maestà, il re d'Inghilterra, contro gli spagnoli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federico Rampini, prima hacker, ora cyberspie, due ragazzi italiani consulenti della NSA, pubblicato da Repubblica di lunedì 15 luglio. Do Domani esce in 50 paesi Springsteen and I, il film prodotto da Ridley Scott che unisce gli archivi del rocker e i contributi del pubblico per raccontare la lunga storia d'amore tra il boss e i suoi fan. Abbiamo viaggiato migliaia di chilometri per essere qui stasera e siamo qui per una sola ragione, perché voi siete qui. C'è solo un uomo che possa dire questa frase da un palcoscenico rivolgendosi al suo pubblico senza suonare retorico, vuoto o falso. Quell'uomo è Bruce Springsteen. E la frase in questione, pronunciata spesso nei concerti degli ultimi anni, ha addirittura l'onore di aprire il film che indaga lo speciale rapporto tra Springsteen, il boss, e i suoi seguaci. Il film, che domani esce in 50 paesi del mondo e nella sola Italia in più di 200 sale, si intitola Springsteen and I. Chi l'ha diretto si chiama Bailey Walsh. Il produttore è il celebre regista Ridley Scott. E le persone che l'hanno girato sono migliaia, certamente più di 2000. Quanti sono i contributi arrivati dopo un primo filtro qualitativo alla casa di produzione da ogni angolo del pianeta? Springsteen and I non è il primo film social del mondo. Ridley Scott aveva già realizzato Life in a Day con l'aiuto degli utenti di YouTube, e neppure il primo film musicale di montaggio fatto con le riprese del pubblico. Il primato va a un video di un concerto dei Radiohead ricostruito a partire dai frammenti degli spettatori, ma è il primo che indaga il culto della rockstar lasciando al pubblico la parola e le immagini. L'idea non è mia, ci racconta il regista Bailey Walsh. Io l'ho sposata subito con gioia, avendone compreso immediatamente il valore innovativo e cogliendo la speciale posizione occupata da Springsteen nell'immaginario del nostro tempo. Tra lui e i suoi fan c'è un legame così forte, una lealtà così assoluta, in entrambe le direzioni, che ho trovato subito molto interessante vedere, e più di una volta, le centinaia di ore di materiale che mi è stato sottoposto. Bruce Springsteen rappresenta il caso rarissimo, probabilmente unico, di rockstar che diventa modello di vita. Bruce mi ha insegnato a essere una persona degna, dice a un certo punto un fan nel film. Ora posso dire che lo capisco, e che capisco di aver fatto un film su una delle poche figure pubbliche in cui la gente davvero ha fiducia. Walsh racconta di aver ricevuto sorprendentemente poche riprese dai fan italiani. Forse non abbiamo spiegato bene che non era necessario parlare inglese, anzi. Ma tra i pochi presenti c'è Luca De Gennaro, direttore artistico di MTV Italia, scelto non per motivi professionali, ma per aver inviato un contributo con un gruppo di amici. Siamo quelli che andarono nel 1981 a vedere il boss a Zurigo, racconta, e negli anni la passione springsteeniana è stata un collante fortissimo. Da quando uno di noi, il 5 maggio 93, intervistò il nostro eroe, ogni 5 maggio ci troviamo a celebrare l'evento, da qualche anno anche con le famiglie e con i figli. Alcuni di loro, i più piccoli, pensano addirittura che il 5 maggio sia festa per tutti, una ricorrenza nazionale per i fan del boss. Quando abbiamo saputo del film, uno di noi ha organizzato le riprese. Devo dire che fin dall'inizio abbiamo avuto una grande impressione di serietà. Ci hanno seguito con cura, anche se poi tra i miei amici sono io l'unico presente nel film e per pochi secondi. Non voglio scegliere un mio fan preferito nel film, dice il regista. Farei torto a una passione vera, che rispetto profondamente. Devo dire che dopo aver incontrato Bruce e il suo manager John Landau, dopo aver avuto accesso completo al loro archivio, pur avendo chiesto e ottenuto una libertà creativa assoluta e la non ingerenza della casa discografica, capisco le ragioni di tanta passione. Ed è questo, alla fine, ciò che racconto nel film. Come la musica e la passione per un musicista possa cambiare e migliorare delle vite, molte vite. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Piero Negri, La lunga storia d'amore tra il boss e i suoi fan, pubblicato dalla Stampa del 15 luglio. Lavorista e collaboratore del Corriere della Sera, Pietro Ichino, oggi senatore per la lista Monti, nei mesi scorsi ha ereditato con il fratello l'appartamento della madre e lo ha affittato. Una volta firmato, decide di andare a registrare il contratto per poterlo poi indicare nella denuncia dei redditi. La lettera denuncia di Ichino inizia davanti al vetro dello sportello. L'impiegato che esamina la pratica osserva che sul contratto avrei dovuto apporre due marche da bollo da 14,62 euro l'una. Vado dunque a comprarle e torno con le marche da bollo. Se non che l'impiegato osserva che le marche avrebbero dovuto recare una data anteriore a quella della stipulazione del contratto e ci aggiunge una sanzione di euro 3,65. A questo punto l'impiegato rileva che i proprietari sono due. Non si può procedere alla registrazione senza che siano presenti entrambi. Ma mio fratello abita in un'altra città. Allora deve inviare una procura perché io possa rappresentarlo. Chiedo dunque a mio fratello di prendere appuntamento con un notaio per stipulare la procura. Costo 300 euro per il notaio più i 168 della registrazione dell'atto. Torno quindi all'Agenzia delle Entrate convinto di aver superato l'ultimo ostacolo. A questo punto viene effettuato il computo dell'imposta di registro da pagare e mi spiegano che per pagarla devo compilare un modulo F23 e andare a fare il pagamento in banca. Eseguito diligentemente anche questo passaggio, torno fiero all'Agenzia delle Entrate con il mio F23 timbrato dalla banca. Penso dentro di me: ho pagato, ora devono soltanto prendere atto ed effettuare la registrazione. Effettivamente a questo punto l'impiegato prende a digitare intensamente sul suo terminale, ma subito aggrotta la fronte. «Lei ha più di 9 proprietà immobiliari?» «No», rispondo, «ne ho solo 3. Oltre alla prima casa, un appartamentino in montagna e una casa in Toscana». «Già, ma se si contano anche 2 pezzetti di terreno che vi sono attaccati, 2 box e 2 soffitte di cui una adattata a mansarda, si arriva proprio a 9. E ora, con l'appartamento della mamma, fanno 10. Devo riconoscere che l'impiegato ha ragione, ma ancora non comprendo dove voglia andare a parare. Me lo spiega impietosamente lui stesso. Chi possiede più di 9 unità immobiliari non può fare la registrazione allo sportello. Può farla solo per via telematica. Oddio, e ora come si fa? Mi spiegano che devo andare a un altro sportello per chiedere un codice PIN necessario per eseguire la pratica online. Ma mi avvertono anche del fatto che, eseguendo la pratica in questo modo, il pagamento dell'imposta non può essere effettuato per mezzo del modulo F23. Va fatto anche quello online. E io, che ho già pagato l'F23 in banca? Non c'è altro modo per rimediare che quello di chiedere il rimborso e intanto procedere a pagare una seconda volta con l'altro sistema. In questa gimcana costosissima, più ancora di tempo che di denaro, a cui ho dovuto sottopormi, vedo l'arroganza di un'amministrazione alla quale tutto è dovuto, dal cittadino suddito, mentre nulla essa stessa al cittadino deve. Non la semplificazione degli adempimenti che un management minimamente capace e attento al benessere del contribuente onesto dovrebbe essere capace di garantire con intelligenza e sollecitudine. Non l'informazione completa e tempestiva che un impiegato minimamente diligente e ben addestrato dovrebbe fornire fin dal primo contatto con il contribuente. Non l'attenzione a evitare tutti i piccoli e grandi aggravi degli adempimenti, che costano al cittadino sproporzionatamente di più di quanto rendono allo Stato. Che stupido questo Stato! Avete ascoltato la lettura della lettera La mia odissea per pagare una tassa di Pietro Ichino al Corriere della Sera del 15 luglio.